Soundcheck, il suono della musica di Gegè Telesforo. Buona domenica a tutti voi in contatto con il Soundcheck di Radio 24 dal Groove Master Studio. Buon pomeriggio da Gegè Telesforo e buon pomeriggio al nostro Francesco Tromba, sei operativo anche oggi? Sì, buona domenica a tutti. E ti vedo molto preso perché abbiamo un ospite che è tornato a trovarci, grande appassionato di musica prima di tutto, prima di diventare giornalista musicale, critico musicale e autore, ormai lo ha scritto un anno fa, di un libro molto interessante che racconta un movimento musicale e culturale chiamato BAM, ovvero BAM, acronimo che sta a definire i confini o forse una vera e propria trincea della Black American Music, ovvero un movimento culturale scaturito da quella mente geniale e anche un po' discussa e discutibile di un trombettista nero americano, formidabile eccellenza del jazz contemporaneo, ovvero Nicholas Payton. Quindi buon pomeriggio a Nicola Gaeta. Ciao a tutti. Grazie Gegè per avermi invitato e grazie a voi per essere in ascolto con voi, benvenuti a questa trasmissione. Allora, BAM è l'acronimo di Black American Music, come hai detto tu, ed è la maniera, io insomma, chiamarla trincea, diciamo così, è un po' riduttivo, perché questa discussione che sta nascendo attorno a questa cosa sta, come dire, definendo un nuovo modo di approcciare quel tipo di musica. Però ecco, va subito sfatato un mito, diciamo così, che sta nascendo, che è quello che Nicholas Payton voglia in qualche maniera, come dire, viene tacciato di essere un razzista al contrario. Allora, BAM è una musica, diciamo, che la Black American Music possono fare tutti, di qualsiasi etnia, bianchi, gialli, viola, eccetera. L'importante è che se ne rispettino i codici. E con questa idea Nicholas Payton vuole semplicemente riaffermare la centralità dell'afroamericano all'interno della sua musica, perché il termine jazz è un furto perpetrato a carico da parte dei bianchi a carico della cultura dei neri. Ecco, il nostro Nicola Gaeta, mio caro Francesco, più di un anno fa ha fatto una bella passeggiata a New York, e per più o meno un mesetto ci sei rimasto, sì, no? Girando in lungo e in largo per i vari club più o meno importanti di jazz e non solo, per capire che cos'è questo BAM. E ha incontrato un sacco di musicisti, con alcuni si è anche un po' scannato, lo posso dire? Sì. Io credo che la cosa interessante di questo libro sia proprio il racconto di questa esperienza americana condita da grandissima musica. Ma chi è Nicola Gaeta? È un medico con la passione per la black music fin da ragazzo, è stato anche nostro collega per diverso tempo perché ha lavorato in diverse radio locali come Radio Norba, Bari Radio 1 e Radio Radicale. È stato anche DJ, organizzatore di festival di musica, scrittore e critico jazz. Ha scritto il libro, come dicevamo, BAM, il jazz oggi a New York, ed ha organizzato anche il festival BAM che si svolgerà a Bari dal 16 al 18 di aprile. Ecco, ne parliamo fra pochissimo, perché adesso dobbiamo andare direttamente alla musica presentando un disco importante per la black music di oggi. Ecco, tu ci dicevi di Nicholas Payton, che vuole definire quali sono i parametri, i codici della black music di oggi. Sicuramente, se il bebop per il jazz è stata una vera e propria rivoluzione, ormai da 30 anni a questa parte la rivoluzione per la black music è stato il rap. E oggi c'è uno dei protagonisti che è tornato alla ribalta con un disco, lo posso dire, pur non essendo un esperto di rap, bellissimo, intitolato To Pimp a Butterfly, e vi stiamo parlando di Kendrick Lamar. A te è piaciuto il disco? Sì, mi è piaciuto tantissimo, però ancora non riesco a parlarne, non so comunicarlo. Non sai ancora definirlo, però è un disco che è stato molto atteso, e tra l'altro per il numero impressionante di prevendite fatte ancora prima della pubblicazione, la casa discografica ha pensato bene con l'artista di anticipare la pubblicazione di To Pimp a Butterfly, che qui presentiamo al Soundcheck con Kendrick Lamar in evidenza, tutta la sua creatività tipicamente Black American. Il brano si intitola You Ain't Gotta Lie, Mama Said. You ain't gotta lie to kick in my neck. You ain't gotta lie, you ain't gotta lie. You ain't gotta lie to kick in my neck. You ain't gotta try so hard. You ain't gotta lie to kick in my neck. You ain't gotta lie, you ain't gotta lie. You ain't gotta lie to kick in my neck. You ain't gotta try so hard. Act to impress me. Ask where the money bags to impress me. Say you got the burning stash to impress me. It's all in your head, homie. Ask where the plug at to impress me. Ask where the jug at to impress me. Ask where it's at only upsets me. You sound like the feds on me. Si intitola To Pimp a Butterfly, il nuovo album del rapper molto atteso Kendrick Lamar, qui al Soundcheck di Radio 24 con il nostro ospite oggi Nicola Gaeta, autore di BAM, Black American Music, la musica di oggi a New York, e tra l'altro è stato utilizzato questo acronimo anche per l'organizzazione di questo festival che si svolgerà, come diceva il nostro Francesco Tromba, a Bari fra pochissimo, quindi la prossima settimana 16, 17 e 18 aprile, e parteciperà al festival anche come dire lo sciamano del BAM, il signor Nicola Speighton in persona. È stato contento Nicola Speighton di questa organizzazione, di questo festival che porta praticamente come titolo una sua idea? Assolutamente sì, lui lo considera come dire un passo importante per lui. E niente, verrà, sarà insomma, suonerà il 18 sabato prossimo in trio con Vicente Archer al contrabbasso e Bill Stewart, un bianco, alla batteria, e sarà ospite anche del concerto di Orrin Evans il primo giorno, il 16, in cui Orrin suonerà senza contrabbasso, ci sarà lui, il batterista che è Donald Edwards, e poi gli ospiti speciali saranno appunto Nicola Speighton e Gary Bartz. Ecco, tu mi parlavamo di BAM e quindi Black American Music, ma il festival mi sa che in questa prima edizione, perché ce ne saranno delle altre, sì, ha un suono molto jazz. Sì, diciamo che nell'ambito del BAM quest'anno abbiamo privilegiato il suo aspetto, l'aspetto della musica afroamericana più swingante, quello che molti di noi sono abituati ancora a chiamare jazz, e quindi c'è appunto una prevalenza di artisti di questo genere. Ci sarà uno dei fiori all'occhiello della manifestazione è la presenza di Johnny O'Neill, che è un cantante, una sorta di Art Tatum che canta il blues, una vera e propria icona per i musicisti di New York. Quando suona Johnny O'Neill, New York si ferma. Vanno tutti a sentirlo. Vanno tutti a sentirlo. E poi ovviamente Orrin Evans sarà, insomma, è difficile districare, cioè stare a indicare quali sono i concerti più importanti del nostro festival, perché io ritengo che siano importanti tutti allo stesso livello. È difficile anche per te che hai scritto il libro. Sì, certo. Allora, torniamo a Kendrick Lamar. Qualche notizia su Kendrick Lamar, questo ragazzo che oggi è venerato anche dai rapper più accreditati come Snoop Dogg? Sì, diciamo che questo disco rappresenta un po' quello che è stato il disco di D'Angelo per l'R&B, quindi quasi sta diventando un disco di riferimento. Sì, di riferimento proprio contemporaneo, cioè appena uscito. Infatti c'è stata grandissima discussione sia online, ovunque, siti americani, italiani, su la reale valenza artistica di questo disco, perché ci sono alcuni punti in cui sembra, diciamo, tutto fatto di pancia, però in realtà è tutto calcolato, perché ovviamente a partire dalla copertina fino a tutte le parolacce che ci sono nel disco è tutto studiato benissimo da Kendrick Lamar. È un disco politico? Anche ci sono tantissimi riferimenti letterari, storici, di lotta razziale, qualsiasi cosa c'è. Sì, si parla di Malcolm X, Martin Luther King e via dicendo. Allora, torniamo ad ascoltare Kendrick Lamar con This World. Sex. Say hey, hey, say hey, hey. I'm a girl. Everyone. Check. Il suono della musica. I gotta persevere. I gotta persevere. I gotta persevere. I gotta persevere. E dal giovane rapper Kendrick Lamar a un veterano come Snoop Dogg in compagnia di Robert Glasper con i suoi Experiment, Loop e Fiasco in Persevere dall'album di successo Black Radio 2 per Robert Glasper and Experiment. Questo è il soundcheck di Radio 24, nostro ospite per parlare di musica, di black music e di BAM, il nostro Nicola Gaeta. Insomma, quanto importante è ancora la scena musicale newyorkese a livello internazionale? New York è un po' è molto importante, è il posto dove accade qualcosa sempre un po' prima che nel resto del mondo, dal punto di vista, parlo del mondo occidentale ovviamente, che per quello che attiene alla creatività, no? Cioè sembra che ci sia nell'aria un'energia particolare che porta i musicisti che si muovono da quelle parti ad avere un atteggiamento diverso rispetto alla musica. È qualcosa che accade solo lì e non accade in nessun'altra parte del mondo. Mi ricordo un'intervista fatta ad un musicista brasiliano, un batterista che si chiama Rogério Boccato di San Paolo, che mi diceva, San Paolo, insomma, stiamo parlando del Brasile, quindi sì, la patria dei poliritmi e di un certo, sì, modo di gestire la musica, eccetera, che mi diceva che l'energia che c'è a New York non c'è neanche dalle sue parti. E quindi, insomma, fate voi, che dire, New York è il posto più importante del mondo per la musica in questo momento. Sì, io avrei una domanda. Prego. Teorizzando comunque BAM, Nicola Speighton non rischia di, in un certo senso, di autoghettizzarsi, nel senso che magari rinchiudendosi in questo in questa categoria si preclude la possibilità di collaborare con artisti che magari dal punto di vista teorico non sarebbero proprio il suo ideale di collaborazione, però magari da cui comunque potrebbe imparare e fare una collaborazione molto produttiva. Questa è una bella domanda che girerai a Nicola Speighton direttamente. Che girerò a Nicola Speighton e che sarebbe opportuno che tu facessi a lui, però ecco, è interessante quello che tu dici, perché quello che è l'appunto che li fanno tutti, no? Cioè, cos'è questo? Un modo di autoghettizzarsi e comunque di porsi, no, sul piedistallo della musica, eccetera. Lui non la mette dal punto di vista strettamente musicale, lui la mette dal punto di vista etico. In quello che lui dice c'è molto dell'idea che hanno gli afroamericani essere ancora adesso, nonostante siamo all'inizio del nuovo millennio, sfruttati dai bianchi. Questo è, quindi c'è molto di etico più che di estetico in questa idea di BAM. Per cui questa cosa qua è, diciamo, in una sede come questa sarebbe molto complicato approfondirla. Possiamo farlo se volete, però diciamo che è una domanda da fare più a lui. Quello che a me preme sottolineare è che BAM non è un movimento musicale chiuso, ma è aperto a chiunque voglia farne parte, ecco, anche di qualsiasi etnia. Io non so se Marcus Miller si sente appartenente al movimento BAM o cosa, fatto sta che continua a fare musica sempre a grandissimi livelli e ultimamente pubblica Aphrodisia, questo è il titolo del nuovo album, dal quale ascoltiamo I Can't Brit, con la partecipazione di Motion Worker, che è un manipolatore di suoni insomma a grandi livelli. Marcus Miller al soundcheck. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. No. E questo è invece uno dei brani presenti in The Black Messiah, il nuovo album di D'Angelo con i suoi The Vanguard, qui al Soundcheck di Radio 24. D'Angelo, artista che in carriera ha realizzato soltanto 3 album in studio e uno dal vivo al Ronnie Scott di Londra, album attesissimo questo Black Messiah dopo 14 anni, album anche molto criticato dal nostro Nicholas Payton, che proprio in un blog, nel suo blog, dichiara: ma abbiamo atteso per 14 anni questo D'Angelo aspettando chissà cosa, e poi alla fine mi sembra un disco normale come tanti altri. In 14 anni, dice Nicholas Payton, ci sono stati altri musicisti che hanno fatto veramente delle cose importanti. Sì, dice, fa l'esempio ad esempio di Bilal, lui dice che fa una metafora, è come se fossimo stati a digiuno per 14 anni e poi anche un semplice cracker ci sembra una cosa da gourmet. Hai capito? Sì, sì, sì, certo. Quindi attenzione a Nicholas Payton, sono sicuro che qualche bega te la creerà a Bari. Guarda, io su questa cosa... Su questa cosa che dice Nicholas sono abbastanza d'accordo. Adesso i toni probabilmente, insomma, sono quelli che ognuno decide di assumere. Però su D'Angelo, proprio su D'Angelo, che è uno dei miei soul singer contemporanei preferiti, devo dire che ci si aspettava, cioè l'attesa di 14 anni, no, rispetto al suo precedente Voodoo, che era un vero e proprio capolavoro, faceva presumere una roba, insomma, molto più come dire, molto, sì, appunto, molto più maestosa, no? Diciamo così, arrangiamenti gestiti da Roy Hargrove, no? Tutte queste cose qua. Io personalmente, che sono un vecchio appassionato del groove, no? della musica nera, proprio del funk, ci ho trovato una diminuzione rispetto a Voodoo, ma è un problema mio di gusti personali, non voglio assolutamente oggettivare una cosa del genere. Ritengo che Nicholas Payton da questo punto di vista abbia ragione, cioè credo che D'Angelo abbia fatto un disco assolutamente in sintonia con la media dei dischi R&B che si sentono ormai in giro, e che questa cosa sia sopravvalutata dal marketing e dal mercato. Insomma. Sì, insomma, per il fatto che è stato atteso per 14 anni, esatto. E naturalmente... Io preferisco Voodoo, continuo a preferire Voodoo. Anch'io, a dire la verità. Allora, torniamo a Nicholas Payton, invece, ascoltando un brano che poi ha dato, credo, anche il titolo all'album, Bitches, qui Nicholas Payton si diverte non solo con la sua tromba, ma anche a utilizzare campionature, groove. È un disco che praticamente se l'è suonato e se l'è cantato quasi tutto da solo. Eccolo qui, Nicholas Payton, ve lo ricordo, che sarà protagonista insieme a tanti altri musicisti, e fra questi vorrei citare anche il nostro Fabio Morgera, che per anni ha frequentato quell'ambiente lì a New York e che ti ha dato una bella mano anche nell'organizzazione, sì, artistica di BAM Festival a Bari dal 16 al 18 di aprile. Nicholas Payton al Soundcheck. Soundcheck, il suono della musica. Si parla come sempre di musica, di ottima musica, qui al Soundcheck Radio 24, in compagnia quest'oggi del nostro Francesco Tromba, ma anche di Nicola Gaeta, autore di BAM, Black American Music, e ne stiamo parlando ancora una volta. E discuterete proprio della musica afroamericana del nuovo millennio a Bari in occasione del Festival BAM dal 16 al 18 di aprile, esattamente alle 11 del 17 di aprile. Dove si tiene questa conferenza? Sì, questo è un altro dei momenti... Officina degli Esordi. Sì, sì, è un posto multimediale che è a Bari, aperto a tutta la cittadinanza ormai da un po' di tempo, dove appunto si fanno queste cose, che gentilmente ci ospiterà venerdì 17, appunto, Si terrà questa tavola rotonda che è aperto a tutti quelli che vogliono venire. Ovviamente ci saranno dei giornalisti che affronteranno l'argomento. Sì, leggo qui anche il mio amico Ugo Sbisà, poi Fabrizio Versienti. Sì, esatto. Tu sarai il moderatore. Attenzione a Nicola Speito, che tira botte soprattutto ci saranno appunto gli ospiti del nostro festival, che sono appunto Nicola Speito, Orin Evans e Gary Bartz, che terranno banco, insomma, che ci spiegheranno un po' dal loro punto di vista che cos'è questa cosa qui. Tu dici che si presenterà Nicola Speito? Ma io penso proprio di sì. No, perché io so che quando va in giro a fare festival sta chiuso nella sua stanza d'albergo, come fanno molti musicisti, si presenta solo qualche minuto prima del concerto, forse al soundcheck. La tavola rotonda sarà presente. Presente. Magari andiamo a fargli qualche domanda. Perché no? Tromba, puoi andarci te, perché io sarò in Sicilia invece per motivi di lavoro. Te invece puoi andare come inviato del soundcheck e da bravo calabrese puoi proporre quelle domande al peperoncino che renderanno l'atmosfera ancora più piccante. Magari. Vieni, sarai il benvenuto. Grazie. Allora, nuovo album anche per Jill Scott, si intitola Golden Moments, questo è il singolo intitolato You Don't Know, e come vedi, come ascolterai mio caro Nicola, Jill Scott, che è una poetessa del contemporary R&B, ha utilizzato molto spesso musicisti che vengono dall'area jazz e quella hip hop, in questo brano ci riporta proprio indietro nel tempo, proprio una ballad molto soul. Sì, anche molto blues, c'è anche la partecipazione di Questlove alla batteria. Lui è come il peperoncino, è dappertutto. Jill Scott con You Don't Know al soundcheck. Ancora pochi minuti a nostra disposizione e poi noi ci risentiamo alle 19.30 per la seconda parte, 19.15 quella più jazz, con ospite il pianista italiano Giovanni Mazzarino, che ci presenterà questa nuova iniziativa, una etichetta di jazz che punta molto sui musicisti di talento provenienti dalla Sicilia, che si chiama Jazzy Records, ma ne parleremo con lui. E soprattutto voglio sapere da Giovanni Mazzarino, oggi che non si vendono i dischi, che senso ha aprire una nuova etichetta discografica. Allora, a Bari ci sarà il BAM Festival dal 16 al 18 d'aprile, quindi preparatevi la prossima settimana per andare ad ascoltare ottima musica e anche delle meravigliose jam session con protagonisti, musicisti presenti nel festival e anche altri amici pugliesi. Sì, certo. Un altro, diciamo, un evento nell'evento è quello appunto delle jam, che noi abbiamo deciso di chiamare BAM Jam, che sono state organizzate da Fabio Morgera. Ci sono delle house bands gestite da questi musicisti appunto che parteciperanno al festival e che, come tutte le jam, sono aperte ad altri, insomma, chiunque voglia salire sul palco, che sia però in grado, voglio dire, di interagire con loro, e quindi musicisti non solo pugliesi ma di tutto il territorio nazionale. Ecco allora, grazie a Nicola Gaeta, ancora auguri, complimenti, ti mando il tromba a vedere il festival. Certo, va bene. Okay. Assolutamente sì. Mi raccomando, la camera a fianco a quella di Nicola Speito, perché dobbiamo fare lo scoop. Dobbiamo anche fare un duello verbale in particolare. Ci riuscirai sicuramente. Vi lascio con Buckshot Le Funk di Branford Marsalis, e questo è un disco che ha rivoluzionato anche questa fusione fra jazz, pop, rap, elementi neri al 100%, molti anni prima di Nicola Speito. Eccolo qui, Music Evolution, infatti è il titolo di questo brano splendido. Ci risentiamo più tardi, sempre su questi schermi, sempre soltanto su Radio 24. Music evolution change, sometimes they come and make it sound strange. Add a little this, take out a little that, then you'll come up with that jazz core rap. Where it's at, bring it back, because it is an ill format. Music evolution change, sometimes they come and make it sound strange. Add a little this, take out a little that, then you'll come up with that jazz core rap. Where it's at, bring it back, because it is an ill format. Wow, me. two, two, two, two, hey, hey. Something, something, something, something. Check one, two, mic check, one, two, mic check, one, two, mic. Microphone check, check, one, two. Sound check, il suono della musica. Di Gigi Telesforo. Diamo il via alla seconda parte del soundcheck di Radio 24. Buonasera a tutti voi, ben ritrovati da Gigi Telesforo e buonasera a due amici che sono venuti a trovarmi qui nel Groovemaster Studio per parlare della nostra musica preferita, ovvero di jazz. E parleremo di una etichetta che ormai ha qualche anno di vita e continua a produrre musica jazz, proponendo anche artisti della nuova generazione. Questa etichetta si chiama Jazzy Records e io vado a introdurvi, salutando con affetto, il maestro Giovanni Mazzarino e Valentina Gramazio, vocalist, che naturalmente cercano tutte e due di fare l'utile e il dilettevole, facendo il loro lavoro di musicisti, scrivendo musica, arrangiandola e poi producendola per la Jazzy Records. Buonasera e benvenuti. Buonasera. Grazie. Allora Giovanni, io sono contento di vederti, noi ci conosciamo da tantissimi anni, tra l'altro tu sei già stato ospite qui del Soundcheck nella passata stagione in una puntata realizzata addirittura in Sicilia, quando tu eri in studio per produrre uno dei dischi della Jazzy Records con protagonisti due giovanissimi talenti del jazz italiano e siciliano, lasciamelo dire, sono contento, Giovanni e Matteo Cutello, dei quali parleremo dopo. Quindi continua l'avventura con Jazzy Records, ma la domanda che ti voglio fare subito è: come mai con la crisi della discografia, le lamentele continue dei musicisti che non riescono a vendere più i dischi di una volta e via dicendo, voi avete voglia di investire tempo e denaro sul talento dei ragazzi per produrre musica per Jazzy Records? E allora, sì, complessa, la domanda è molto complessa. E beh, ci siamo levati subito quella più difficile. Va bene, allora così siamo a posto. La domanda è complessa, ma fondamentalmente l'idea di fare un'etichetta discografica, di impegnarsi, no, da un punto di vista discografico, non è proprio precipuamente l'idea finanziaria, economica, di investimento. Mm. Perché se fosse così sarebbe assolutamente deficitaria. Da pazzi, no? Certo. Sarebbe assolutamente deficitaria. Anche perché non è che noi stiamo producendo George Benson piuttosto che Madonna o altro, per cui non abbiamo neanche le capacità per farlo e quindi chiaramente non abbiamo neanche quel tipo di ritorno. Sicuramente però la produzione discografica aiuta maggiormente la progettualità artistica che noi vogliamo portare avanti anche attraverso anche l'attività, diciamo, come dire, di organizzazione o di proposta per quanto concerne l'attività concertistica, perché gli spazi sono sempre meno in Italia. Allora anche la Jazzy Record non soltanto si occupa di mettere in evidenza tutti i talenti, in particolar modo, almeno questo sarebbe cosiddetto il DNA, spirito siciliano, si dice, no? Noi, è il nostro motto. In realtà sono tutti quei musicisti che per un motivo o per un altro hanno incontrato la Sicilia nel loro percorso artistico, quindi non devono essere necessariamente siciliani, possono anche essere, certo, americani, piuttosto, però che comunque hanno incontrato o vogliono incontrare in qualche modo, no, l'idea della Sicilia, perché dalla Sicilia, comunque tutti sanno, primo disco di jazz è stato fatto un siciliano. Quindi Sicilia, fra le prerogative dell'etichetta c'è, cioè quella di produrre musica, di sostenere i giovani talenti siciliani e in qualche modo di promuovere anche la Sicilia. Esattamente. Perché ho notato che in alcune produzioni ci sta il marchio di alcuni comuni, no? Cioè, sì, sì, infatti. C'è qualche comune che appunto ci sono dei talenti che vivono all'interno, diciamo, cioè, che vivono tutti in Sicilia, e i comuni, diciamo, dove loro vivono, e incominciano pure loro a partecipare. Questo per noi è una cosa molto importante. Ma è bellissimo. Esatto, noi vogliamo coinvolgere. Quindi noi vogliamo coinvolgere a diverso titolo anche diverse, non solo persone, ma anche personalità giuridiche, i comuni per esempio, o comunque enti in genere che possano veramente dare una mano a che questa musica possa essere divulgata nella maniera giusta. Bene, una bellissima iniziativa, Jazzy Records con Giovanni Mazzarino. Tu sei il direttore artistico dell'etichetta. Io sono il direttore. Invece poi c'è un altro ruolo creativo che spetta, credo, a Valentina, che è quello di dare anche una impaginazione artistica. Io ti faccio i complimenti, Valentina, perché i booklet, le copertine di questi CD sono splendidi. Grazie. Ti ringrazio, è un lavoro molto importante che stiamo facendo sia dal punto di vista musicale ma anche dell'immagine, perché la mia è un'estrazione anche pubblicitaria e quindi abbiamo cercato di portare in questi dischi anche il valore dell'arte abbinando a ogni progetto discografico anche un progetto artistico di un artista differente. Quindi anche l'occhio vuole la sua parte, ma cerchiamo di capire con le nostre orecchie che cosa combinano lì alla Jazzy Records, proponendovi un album di un paio di anni fa oramai. Giovanni Mazzarino al pianoforte, il signor Riccardo Fioravanti al contrabbasso, bravissimo, e Stefano Bagnoli alla batteria, che saluto con affetto. Il brano, una composizione di George Gershwin rivisitata, si intitola Who Cares, qui al Soundcheck di Radio 24. Trio di Giovanni Mazzarino con Fioravanti Bagnoli Trio, un album intitolato Songs per Jazzy Records. I nostri ospiti infatti sono Giovanni Mazzarino e Valentina Gramazio, che per la Jazzy Records, come ci ha raccontato, ci mette l'occhio, quindi con una sensibilità tutta femminile, anche per dare un'impaginazione molto elegante a questi booklet. Allora, raccontami Giovanni come funziona la distribuzione di Jazzy Records. Alla distribuzione di Jazzy Records noi siamo distribuiti da IRD per tutti i negozi, che è una distributrice accreditata in Italia, esatto, molto importante, e anche all'estero, devo dire. E poi abbiamo anche contatti, abbiamo chiuso, diciamo, dei contatti anche con diversi luoghi, chiamiamoli luoghi culturali italiani, quali le Feltrinelli per esempio in tutta Italia, per cui i nostri dischi li troviamo e li troverete e li trovate presso appunto le Feltrinelli in Italia, e ancora attraverso chiaramente la musica attraverso tutte, insomma, quelle che sono le piattaforme digitali, eccetera. Allora, vorrei farvi ascoltare di Jazzy Records una produzione che sarà in distribuzione fra qualche giorno e che è quella che vede protagonista proprio la nostra Valentina Gramazio, con la sua voce, una serie di eccezionali musicisti che poi sono quelli anche che partecipano alla realizzazione degli album di Jazzy Records. Questo brano dà il titolo all'album, ovvero Per inciso. L'hai scritto tu? Sì, l'ho scritto io. Per inciso l'ha arrangiato Giovanni Mazzarino, che ha fatto anche la direzione musicale del disco. Per inciso perché la musica è un po' un inciso nella mia carriera, ed è per questo progetto è abbinato alle incisioni di Paola Maestroni, sempre quindi jazz e arte. Governare il tempo, decidere la sua velocità, salire e scendere dai secondi al volo, giocando con la relatività. Soundcheck, il suono della musica. Pur avendo scritto questa composizione intitolata I Rookie ormai molti anni fa, ultimamente, ovvero l'anno scorso, ho fatto una gran fatica a realizzare questa versione super fast con Giovanni Mazzarino al pianoforte, Bagnoli alla batteria, Riccardo Fioravanti al contrabbasso e starring naturalmente i due fratelli Cutello, Giovanni e Matteo Cutello, nuovi talenti del jazz italiano, soltanto 16 anni, 15 quando hanno registrato con noi questo brano. Io ti ringrazio per avermi dato ancora una volta l'opportunità di scoprire la meraviglia del talento di giovani musicisti italiani. Giovanni, ma sicuramente loro sono veramente veramente forti. sono forti non soltanto musicalmente, ma proprio artisticamente parlando. Loro hanno cominciato questo percorso già un po' di tempo fa, quando avevano quasi 11 anni, sì, 10-11 anni. Hanno cominciato a lavorare bene soprattutto con la testa, oltre che con le mani. E questo infatti è il risultato anche, diciamo, di questo grosso traguardo. Noi siamo stati in America insieme. E devo dire con i fratelli, con i fratelli Cutello. Cutello. Ah. E devo dire che veramente, diciamo, per usare un termine quasi da casino, loro hanno sbancato. Sì, eh? Dove sì. siete stati? Ma siamo stati proprio nei postacci apposta, poi siamo andati dallo Smoke allo Smalls con Jam Session fino alle 5. Ah, proprio a New York City. Sì, sì, sì, New York City. E poi siamo stati a Boston. E... allora dimmi la faccia degli americani quando hanno visto due ragazzetti siciliani. Sì, in realtà la prima volta quando lo Smoke loro si sono presentati, si sono iscritti, no? Per la Jam e l'hanno guardati come dire: beh, questo, cioè, voi siete, vostro papà dov'è? Cioè, magari pensavo che loro andassero in luogo del papà o della mamma, no? Invece no, cioè, no, siamo noi musicisti che siamo iscritti alla Jam. E quindi, insomma, devo dire che è stata un'esperienza bellissima per me, soprattutto che li ho visti crescere, per me sono come i miei figli musicali. E devo dire molto emozionato. E poi hanno suonato con i più grandi musicisti e a tardissima ora. Ci sono dei video già su YouTube dove si evince, si vede l'ora, scritto non so 4:43, 4:46 alle 5:15 del mattino a New York al Beh, Village. Complimenti, perché stai facendo fare una bellissima esperienza a questi ragazzi, ma tu lo fai da sempre, perché ti dedichi alla tua musica, ma ti dedichi anche alla didattica, organizzando ogni anno dei bellissimi festival di jazz con le masterclass, gli incontri, la possibilità per tutti i ragazzi siciliani e non di incontrare i grandi musicisti, e tra l'altro con una bellissima organizzazione quasi a conduzione familiare, che significa che c'è un rapporto diretto fra i ragazzi e i grandi musicisti. Quindi complimenti Giovanni. Io direi di tornare ad ascoltare qualcosa della Jazzy Records, un altro album prodotto da Giovanni Mazzarino, e parlando di Sicilia, eccolo qui, In Sicilia, una suite, quindi quasi un'opera che Giovanni ha dedicato alla sua Sicilia e ai posti ai quali sei affezionato. Infatti vedo qui ci sono Ibla, Milo, Stromboli, Rosa di Ionia, Ganzirri, Noto, Scicli, quindi tutte località che poi io conosco bene e che sono splendide. Il brano che vi presento è dedicato però alla tua città. Sì, la mia città è dove vivo io, è Piazza Armerina, che il titolo è Piazza. Eccolo qui. Soundcheck, il suono della musica. Artista della Jazzy Records, il chitarrista Umberto Capilongo con Fast Idea qui al Soundcheck di Radio 24. Io complimenti li faccio a tutto lo staff dell'etichetta e anche in modo particolare a un bravissimo ingegnere del suono che si chiama Andrea Bilello, che realizza gran parte della produzione nel suo studio lì a Piazza Armerina. Quindi è una cosa fantastica sapere che anche nella provincia italiana esistono delle realtà competitive, ma non voglio dire a livello nazionale, ma a livello internazionale, perché il suono dei vostri dischi è impeccabile. Quindi io voglio ringraziare Giovanni Mazzarino e naturalmente per la partecipazione anche la bravissima Valentina Gramazio per aver raggiunto il Groovemaster Studio dopo una bella spacchinata in macchina da Milano, perché ormai gran parte del lavoro lo svolgete lì. Eh sì, ormai la base è a Milano, ma le radici sono sempre in Sicilia. Appunto, Jazzy Record, il suono della Sicilia nel mondo. Allora Giovanni, grazie. Avete impegni prossimamente per l'estate? Stai organizzando una nuova edizione del Messina Jazz Festival o no? Sì, c'è una nuova edizione del Messina Jazz Festival. Quest'anno non ci sarà la didattica, c'è un anno di riflessione su questa cosa. Ah sì? C'è un anno di riflessione. Questo un po' mi dispiace. E di questo dispiace molto più a me, devo dire. Ma è un attimo di riflessione, perché sappiamo che il momento è molto difficile, i tempi sono molto difficili, per cui insomma quest'anno facciamo un attimo di pausa. Però la Jazzy Records non abbandona. Nel senso che comunque al nord dell'Italia, stiamo, diciamo, ecco, non lo pubblicizziamo in questo momento perché ancora non è confermato, comunque diciamo c'è una realtà che si sta muovendo, e quindi probabilmente parte della didattica la sposteremo per quest'anno, comunque e anche per gli anni a venire, perché è una cosa molto particolare che quando poi insomma la vedrete, vi piacerà, ne sono certo. Grazie a Giovanni Mazzarino, grazie alla Jazzy Records, grazie a Valentina Gramazio per la partecipazione. Noi ci risentiamo naturalmente sabato prossimo a partire dalle 19:30. Vi lascio con un altro chitarrista della Jazzy Records, Martino Vercesi, con Blues for Jim. A tutti voi buona serata e buona musica da Gigi Telesforo.